Europa 24. In primo piano il tema immigrazione e l'incendio scoppiato ieri sera nel campo profughi di Lesbo in Grecia per la protesta di alcuni ospiti contro le condizioni di vita della struttura. Questa mattina a Bruxelles le parole di Natasha Berthaud, portavoce della Commissione europea. We've been in touch with the Greek authorities on this and who have informed us that the situation is now under control. Le autorità greche hanno confermato che la situazione è ora sotto controllo e la maggior parte dei migranti evacuati per ragioni di sicurezza hanno fatto ritorno al campo. La portavoce ha aggiunto che le autorità locali stanno lavorando per riparare i danni provocati dall'incendio alle strutture. Il centro di Lesbo è ormai al collasso e continui arrivi e rimpatri forzati verso la Turchia rischiano di far saltare un equilibrio già precario. Il Consiglio europeo ha dato il via alla procedura di adesione della Bosnia Erzegovina. La Commissione europea dovrà quindi esprimersi nei prossimi mesi sull'esistenza delle condizioni per riconoscere alla Bosnia lo status di paese candidato. La domanda di adesione all'UE era stata presentata ufficialmente a febbraio. E di migranti ha parlato l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione europea, Federica Mogherini. Con il piano per l'Africa e il Mediterraneo, l'Unione Europea sta trasformando principi, parole e visioni in fatti. Parlando ai giornalisti a margine del summit sui migranti all'ONU, l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione, Federica Mogherini, difende l'Europa dalle accuse di immobilismo sul tema migranti, che arrivano anche dal premier italiano Matteo Renzi. We presented the European External Investment Plan. Mobilizing EU funds. We plan to mobilize. Abbiamo presentato, ha detto Mogherini, il piano europeo di investimenti esteri. Saranno mobilitati fino a 44 miliardi di euro per importanti investimenti in Africa e nel Mediterraneo. Mogherini fa riferimento al piano di investimenti avanzato il 15 settembre dal presidente della Commissione europea Juncker alla plenaria di Strasburgo. Nelle intenzioni della Commissione, nel piano dovrebbero convergere finanziamenti per 3,35 miliardi di euro dal budget dell'Unione e dai fondi europei per lo sviluppo. Centrale poi il ruolo della Banca Europea di Investimenti. Sul piatto, tra il 2014 e il 2020, dovrebbero esserci prestiti per 32,2 miliardi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A soli 16 anni, Valerio Pagliarino, studente di un liceo scientifico nella provincia di Asti, si è aggiudicato il primo premio della 28esima edizione del concorso Giovani Scienziati della Commissione Europea, a cui hanno partecipato 138 giovani ricercatori a Bruxelles. Pagliarino, col progetto Laser One, connessione a banda larga ultralarga laser, ha trovato il modo di aumentare la banda larga con la possibilità di portarla anche in piccoli centri, dove oggi ancora non esiste. E allora sentiamo Valerio Pagliarino al microfono di Anna Marino. Per me è stato un grande traguardo vincere questo EUCIS, non me l'aspettavo sinceramente. Quindi spero che il mio progetto adesso possa continuare la sua fase di sperimentazione e più avanti diventare effettivamente uno strumento utile alle persone. E questo è stato quello che ti ha spinto, perché sei nato in un paese che aveva bisogno, aveva questa necessità che ha aguzzato l'ingegno. Dove abito io, la connessione internet è al limite della decenza e quindi questo mi ha dato l'idea di provare a studiare una tecnologia per risolvere questo problema. E quanto hai studiato, quanto ti sei applicato per arrivare a questo? A gennaio ho avuto l'idea e quasi contemporaneamente ho avuto la grandissima opportunità di venire a conoscenza del concorso I Giovani e le Scienze organizzato dalla FAS di Milano, che praticamente è la selezione nazionale per i progetti da mandare a questo concorso europeo. E dopo tutta una serie di selezioni la FAST ha deciso di farmi rappresentare l'Italia. Per me già solo quello è stato un grandissimo onore. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.